Thank you. Siete ritornati quindi in ascolto con la mia voce, Alberto, in regia per quanto riguarda questa eccezionale, speciale puntata di agosto, quindi la puntata di Up dedicata al Festival Jazz di Saalfelden che avverrà il prossimo fine settimana dal 28 al 30, escluso il giovedì, facendo eccezione anche, anzi scusate, il giovedì che farà parte invece di un calendario chiamato Shortcuts, e di cui farà parte questa grande pianista che abbiamo ascoltato fino adesso, ovvero la francese Yves Risset. Questo lavoro, Deux Pas sur la Neige, Due Passi sulla Neve, è uscito sempre per la Clean Feed, come avevo già annunciato, proprio di recente. È stato uno degli album più acclamati, più ben discussi a livello di improvvisazione, ma neanche poi molta, in quanto c'era comunque un rigore di preparazione su questo piano preparato, e come pochi sono riusciti a realizzare fino adesso, tant'è che appunto direi voglio farvi ascoltare nella seconda ora la traccia secondo me più bella anche di questo lavoro, proprio La Neige sur la Ville, tre titoli, quindi Deux Pas sur la Neige, Deux Pas sur la Ville e poi La Neige sur la Ville. Vabbè, simpatico gioco di parole, bellissima comunque la musica. Quello che stiamo ascoltando invece adesso andrà a chiudere la prima ora di questa puntata speciale di Up con una formazione eccezionale, anche qui norvegese, è uscita per la Runar Gramophone, prima con l'album Exit e adesso con questo Enter, la Fire Orchestra, che prima ancora di questi due lavori era uscita con una formazione più minuta, pochi elementi, tra cui con una formazione, scusate, una partecipazione straordinaria di Jim O'Rourke in un album, e adesso invece si sono allargati con questo jazz esplosivo, bellissimo, e vi lascio quindi l'ascolto, se no vi rubo tutto. Niente, ci risentiamo dopo, quindi nella seconda ora. Thank you.

Grandissimi questi Exitute, cioè scusate, questi Fire Orchestra, che saranno presenti appunto a Saalfelden il prossimo weekend. Grandissima, ripeto, formazione che però per quanto riguarda quello che suoneranno proprio dal vivo, riguarderà un altro progetto, non quello che abbiamo ascoltato stasera, qualcosa che non ho ancora tra le mie mani, spero di averlo a breve, che sono molto molto curioso, ovvero Ritual, e quello che ascolterò comunque la prossima fine settimana. Sarà quindi una novità e non vedo l'ora. Intanto quindi un piccolo break pubblicitario, poi di nuovo ancora parleremo di questo festival con un altro ascolto, che come ho già anticipato poc'anzi, a questa grandissima pianista improvvisatrice francese Yves Risset, e questo appunto dopo lo stacco pubblicitario, non subito dopo, direi di no, però vorrei chiudere in bellezza con lei, questo sì, sicuramente, concedetemelo. Quindi un piccolo, ancora qualche minuto con la regia, e subito dopo con di nuovo, nuovamente con App. Onde Furlane Spot. Lampi, usi in vita,